2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, una nuova puntata di 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Potete utilizzare anche Facebook oppure Twitter, ma come sempre dico, preferiamo l'email, visto che vi dà agio di scrivere qualche cosa di più rispetto. Certo, anche su Facebook potete dilungarvi rispetto a Twitter. Iniziamo da aggiornamento su quello che sta succedendo al Palazzo Chigi, perché sapete che da qualche mese è stato attivato un gruppo di lavoro, una sorta di tavolo non solo politico ma tecnico, dove ci sono degli esperti che si dovrebbero occupare di banda larga. In effetti se ne stanno occupando da un po' di tempo, però c'è qualche problema. Fino a qualche tempo fa tutto filava liscio, e poi al Presidente del Consiglio è venuta l'idea di aggiungere due consulenti a questo tavolo tecnico. Sono consulenti che si occupano di economia in generale: Andrea Guerra, di cui probabilmente avete sentito, e anche Joram Gutgeld, che consigliano, oltre che il Presidente del Consiglio, anche alcuni apparati all'interno di Palazzo Chigi. Questo tavolo dovrebbe trovare la formula per portare avanti lo sviluppo della rete di nuova generazione, cioè lo sviluppo della rete internet in Italia. Allora, si è partiti con un'idea, anche perché questa idea è scritta nel programma con il quale Renzi si era presentato alle primarie del PD, quindi è scritto nero su bianco, quindi da lì si dovrebbe partire. Realizzare una rete di nuova generazione, messa a disposizione di tutti gli operatori di telecomunicazioni, di proprietà di un soggetto esclusivamente pubblico, senza fine di lucro, non scalabile, promossa da Cassa Depositi e Prestiti. Molto semplice, molto chiaro. Allora, da lì si partiva. Direi che il massimo esperto all'interno di questo gruppo di lavoro per portare avanti questo progetto è Raffaele Tiscar, però evidentemente questo progetto, questa idea non piace molto a Telecom Italia, abituata naturalmente al monopolio. Allora qui cominciano alcuni problemi, perché pare insomma che ci sia stato qualche diversa visione da parte dei consulenti di Palazzo Chigi, tanto per rovinare le cose che stavano pian pianino succedendo. Però vedremo, non è detto nulla al momento, insomma c'è una sorta di stand by. Al tavolo ci sono varie persone, c'è Cassa Depositi e Prestiti col presidente Bassanini, c'è anche il vice ministro per le comunicazioni Antonello Giacomelli, altre persone che si occupano di questo dossier. Giusto per darvi un aggiornamento, questa sera parleremo di alcune novità che sono state presentate in settimana, ma come spesso facciamo iniziamo dalle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo dal mondo televisivo. Il canale 9 del digitale terrestre passa di mano Discovery, l'americana Discovery, ha acquistato dall'Espresso All Music, che è l'editore di DJ TV. Altra novità riguarda Sky TG24, che dal 27 gennaio sarà sul canale 27, dove c'è Classe, e canale che Sky ha acquistato alla fine del 2014. Non sarà solo un canale di informazione come sul satellite, ma Sky TG24 sul digitale terrestre avrà anche altri contenuti. La Rai, che vede tutto ciò come un diretto concorrente, perché di fatto lo è, pensa di spostare Rai News 24 sul canale 24, e dovrebbe essere naturale così rispetto al 48 di oggi. Digital News. Amazon acquisirà per 350 milioni di dollari Annapurna Labs, una società israeliana specializzata nella progettazione di chip. Per far cosa? Non si sa. Altra operazione annunciata questa settimana riguarda Dropbox, che ha acquistato per una cifra ancora sconosciuta CloudOn, una startup, anche questa israeliana, che permette di creare documenti di Microsoft Office online. E visto che siamo in tema di denari e di investimenti, allora è stata quotata in borsa oggi, quindi la settimana si chiude con una quotazione, l'ennesima quotazione nel mondo tecnologico, è arrivata in borsa al NYSE, il New York Stock Exchange, Box, che è il concorrente principale di Dropbox. Allora, chiuso con un rialzo del 66%. Digital News. News. Da questa settimana WhatsApp può essere usato anche su PC tramite il browser Chrome. Si tratta di una replica della chat dei messaggi che continuano a risiedere sul telefono e forse l'unica comodità è che si può usare la tastiera del computer quando si è alla scrivania. Per accoppiare il PC allo smartphone si deve andare all'indirizzo web.whatsapp.com. Digital News. Ultima notizia riguarda Google e la finanziaria Fidelity, che hanno investito un miliardino di dollari in SpaceX, la società privata specializzata nel settore spaziale che già fornisce navette cargo alla NASA per portare materiali alla Stazione Spaziale Internazionale, ma anche lancia satelliti. Ormai SpaceX è una realtà affermata, ha annunciato pochi giorni fa di voler realizzare una rete di satelliti orbitanti da 10 miliardi di dollari per sostituire alcune dorsali terrestri in fibra ottica per smistare il traffico internet nel mondo. Vedremo poi se riusciranno a farla questa mega infrastruttura. Esistono almeno due progetti simili, uno punta a fare una cosa molto simile, l'altro punta soprattutto a portare internet nei paesi del terzo mondo. Si tratta di O3B, Other 3 Billion, quindi gli altri 3 miliardi che devono essere collegati. Allora, questa società ha già 8 satelliti in orbita, invece la futura, chissà se ci sarà, futura concorrente di SpaceX è OneWeb, che appunto vuole lanciare alcuni satelliti per fare una dorsale internet, che è finanziata da Virgin e Qualcomm. Adesso parliamo di una bella multa che l'autorità garante per la concorrenza del mercato ha dato ai 4 operatori di telefonia mobile. Non si è salvato nessuno dei 4. Allora, TIM e 3 hanno preso 1,75 milioni di euro, quindi 1.750.000 euro, Vodafone e Wind 800.000 euro. Per quale motivo? Ci ha spiegato il motivo Giovanni Calabro, che è il capo della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore all'interno dell'Antitrust. Sono delle pratiche commerciali scorrette poste in essere da tutti gli operatori di telefonia mobile presenti sul mercato che hanno sostanzialmente posto in essere due condotte. Hanno omesso di informare la clientela circa il fatto che il contratto sottoscritto dava luogo pure a una preabilitazione della carta SIM alla ricezione dei servizi a sovrapprezzo, e hanno omesso di dire che si poteva chiedere il blocco selettivo per impedire la ricezione e quindi il pagamento di tali servizi. E poi in alcuni casi c'è stata anche una pratica aggressiva dell'attuazione di una procedura automatica che consente sostanzialmente all'operatore telefonico di far transitare i dati del cliente a un soggetto terzo, che è quello che fornisce i servizi a sovrapprezzo, con un addebito a carico della clientela. Quindi un cliente di un operatore di telefonia mobile si trova a sua insaputa, talvolta attivati i servizi a sovrapprezzo, e si trova a pagare senza neanche saperlo. A questo punto è automatico che questi servizi vengano disabilitati dagli operatori nei confronti dei loro clienti oppure no? Guardi, la regolazione dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni e in parte l'autoregolazione di settore voluta dagli stessi operatori già prevede la possibilità di disabilitazione. Quello che mancava e che manca tuttora è un'adeguata informativa, cioè il cliente non deve saperlo dopo, deve saperlo prima. Se però incappa in un servizio a sovrapprezzo o in un abbonamento non voluto, deve poter disabilitare, e questo lo può fare. Si tratta ovviamente poi di verificare se può avere indietro le somme pagate. Esatto, da questo punto di vista ai consumatori che dicono benissimo le multe ma vorremmo anche essere risarciti, che cosa rispondiamo? Rispondiamo innanzitutto di agire tempestivamente. Agire tempestivamente vuol dire non attendere. Quando vediamo che sul nostro telefonino c'è qualcosa di anomalo, degli addebiti che si riferiscono al servizio che noi non abbiamo assolutamente sottoscritto, in quei casi dobbiamo immediatamente agire, contattare gli operatori telefonici, chiedere il blocco di questi servizi e il rimborso di quanto pagato. Se poi ciò non accade, ovviamente ci sono le vie ordinarie di azione che però hanno i loro costi. Le multe che voi avete dato sono nate da un'indagine che è partita da una serie di segnalazioni degli utenti, giusto? Esatto, degli utenti e talvolta anche di associazioni di consumatori, perché in realtà la difficoltà era proprio quella di avere non solo, non tanto il blocco dei servizi, quanto anche poi la restituzione di quanto pagato. Nei calcoli questi servizi possono arrivare a un costo di 5 euro a settimana, lo moltiplichi per i milioni di clienti che hanno gli operatori telefonici, non tutti hanno questi servizi, non tutti ovviamente li hanno come servizi non voluti, ma insomma è un business di un certo rilievo. Allora è importante che se c'è un indebito pagamento ci sia anche una restituzione, una ripetizione di questo indebito. E dipende un po' dalle varie realtà, dalle varie società, ma anche su questo immagino che gli operatori si muoveranno. Lo auspichiamo. Senta, proprio perché questo business è potenzialmente molto, molto grande, c'è chi ha detto ma queste multe sono basse, parliamo di 5 milioni per tutti e quattro, spalmate su tutti e quattro gli operatori. Non si poteva, diciamo, avere una mano più pesante? Guardi, le multe sono relativamente elevate se si considera che il massimale che ha l'autorità per le sanzioni pecuniarie amministrative, quindi per cosiddette multe per le pratiche commerciali scorrette, è di 5 milioni, quindi oltre 5 milioni per singola impresa l'autorità non può andare. Quindi chiaramente queste sono un quarto, no, del massimale totale, però sono sanzioni che vanno dal 1.750.000 euro agli 800.000 euro, di relativa importanza. Teniamo presente però che se le imprese, una volta diciamo che superato il vaglio eventuale del giudice amministrativo, se le imprese non ostemperano, la sanzione può essere reiterata fino ad arrivare a un massimo di 5 milioni e addirittura, essendoci un'indicazione anche prescrittiva nei proventi dell'autorità, diciamo, di ottemperare, si può arrivare in caso di reiterata in ottemperanza a un dispositivo che imponga un determinato comportamento agli operatori di non attivare più questi servizi. Le faccio un'ultima domanda, siamo sicuri che poi le multe verranno pagate? Di questo saremo sicuri dopo il controllo del giudice amministrativo. I nostri provvedimenti sono soggetti ovviamente a impugnativa e immaginiamo che possa capitare anche in questo caso, però teniamo presente una cosa, in queste decisioni, ed è anche un motivo per cui gli importi e le sanzioni non sono forse elevatissimi, sono arrivati non elevatissimi, nelle nostre decisioni già ci sono in nuce dei proponimenti, delle buone intenzioni da parte degli operatori, quindi siamo certi che muteranno le condizioni e gli operatori stessi avranno interesse per tutelare i loro clienti a evitare che questi incappano in servizi non voluti. Lo sforzo da fare è quello di dirlo, di non omettere questa informazione importante, che al momento della sottoscrizione di un contatto telefonico e in qualunque momento successivo, quando compriamo una SIM o in qualunque momento in cui abbiamo una SIM in tasca e il nostro telefonino, noi possiamo chiedere la disabilitazione, il blocco di questi servizi definitivamente. Ecco, forse questa è una misura draconiana estrema, ma che almeno nei confronti dei soggetti deboli, anziani, ragazzi eccetera, può essere una misura da considerare. Poi se li vogliamo questi servizi e li sottoscriviamo liberamente, ovviamente dobbiamo pagare il relativo prezzo, su questo non si discute. Quindi il messaggio per tutti i nostri ascoltatori, anche non per i nostri ascoltatori, quindi andate a riferire, preoccupatevi di valutare se vale la pena disattivare questi servizi, se proprio non ne avete bisogno, perché in alcuni casi ci potrebbero essere anche servizi che uno attiva a pagamento e vuole utilizzare i servizi a pagamento, l'importante è che siano quelli che ha richiesto e non altri. Comunque gli operatori in questo caso si sono comportati male e giustamente l'autorità, in questo caso l'antitrust, ha multato i quattro operatori di telefonia mobile. Aggiungo, visto che come abbiamo detto tutto ciò è nato sulla segnalazione di associazioni di consumatori e anche dei consumatori direttamente, non dico che non dovete scrivere a noi, arrivano tutte le settimane molti ascoltatori che si lamentano delle cose più diverse, non solo degli operatori di telefonia mobile, potete scrivere anche a noi, però sicuramente una idea è anche quella di scrivere alle autorità che, come vedete, prendono note e poi agiscono con naturalmente tutte le difficoltà, i tempi, eccetera, eccetera. Altra notizia di questa settimana, Microsoft ha presentato Windows 10. si salta la versione 9 e dalla 8 si passa alla numero 10 per dare un segnale di discontinuità col passato. Allora, ci riuscirà a dare questo segnale di discontinuità? Lo vedremo in un paio di anni circa, ci vorrà ancora un po' di tempo. Quali sono le novità più importanti che sono state presentate? Lo abbiamo chiesto a Claudia Bonatti, che è responsabile della divisione Windows in Microsoft Italia. Abbiamo annunciato moltissime cose. Prima di tutto, sicuramente una cosa che può interessare molti, l'aggiornamento per tutti coloro che hanno Windows 7, Windows 8.1, Windows Phone 8.1, l'aggiornamento a Windows 10 sarà gratuito per tutti coloro che vorranno farlo nei primi 12 mesi dal lancio. Una decisione che abbiamo preso perché vogliamo rendere disponibile questa nuova versione di Windows a un numero veramente molto alto di persone il più velocemente possibile. Questo perché per noi Windows 10 rappresenta veramente la nuova generazione di Windows, un sistema operativo che unifica le piattaforme che oggi noi abbiamo, quindi la piattaforma Phone, la piattaforma PC, la piattaforma tablet e per certi versi anche quella di Xbox per il gioco. Ci sono moltissime novità. Sicuramente una parte molto importante di queste novità è legata a come noi possiamo interagire con il sistema operativo. Prima di tutto avremo su Windows 10 un assistente digitale, si chiama Cortana. Qualche utente di Windows Phone in Italia probabilmente la sta già sperimentando. Questo assistente digitale mi permetterà di dare comandi al PC utilizzando la voce, quindi dettare una mail, cercare un file, svolgere alcune operazioni di comando sulla macchina. Questo sicuramente è una grossa novità. Avremo una nuova esperienza web su Windows 10, stiamo ridisegnando Internet Explorer, quindi un nuovo progetto di browser che permetterà non soltanto di leggere in maniera più semplice e più chiara le pagine web, ma anche di utilizzarle per lavorare, poter per esempio scrivere, prendere appunti direttamente sulla pagina web e condividere questi materiali con i miei collaboratori, i miei amici. Potremmo avere tutta la piattaforma del gaming Xbox su Windows 10, quindi io per esempio potrò avere uno scenario nel quale su un PC Windows 10 gioco contro o insieme a un amico che sta giocando su Xbox One e quindi la possibilità proprio di far interagire il PC con la console. Avremo delle nuove app, abbiamo ridisegnato alcune delle app native di Windows 10, il musica, il calendario, i contatti, permettendo veramente di integrarle, di fare in modo che l'esperienza di utilizzo dell'utente sia uniforme e sempre sincronizzata su qualsiasi dispositivo usando questa applicazione. Passo dal telefono al mio PC piuttosto che al tablet. Possiamo avere un'idea su quando arriverà questo prodotto? È stato detto entro il 2015, che è un po' vago. Entro il 2015 quello che posso dire è che avremo un ulteriore appuntamento in primavera, alla fine di aprile, abbiamo una grossa conferenza dedicata al mondo degli sviluppatori in cui rilasceremo tutti gli strumenti di sviluppo per Windows 10 e quindi l'appuntamento di fine aprile segnerà un'ulteriore tappa di avvicinamento al lancio di Windows 10. Diciamo che lasciamo maggio, giugno e magari un pezzo d'estate per sviluppare i software, poi potremmo vedere qualcosa. Potrebbe essere uno scenario. Sì, probabilmente questo nuovo software potrebbe uscire in autunno, comunque per il ritorno a scuola, come dicono gli americani. Ricordo che nella nostra versione podcast ci sarà l'intervista in versione integrale. Un'altra novità che riguarda Microsoft, riguarda Office, la versione 2016 verrà lanciata anche quella entro quest'anno. Microsoft ha poi presentato HoloLens, una sorta di occhiale con grandi lenti sulle quali si vedono oggetti che quindi si aggiungono alla realtà. Quindi io vedo l'interno di casa mia, ad esempio, e su queste lenti posso aggiungere una realtà virtuale. Allora, come dice la presentazione, si mescola il virtuale con il reale, una sorta di ologramma con il quale è possibile anche interagire. L'idea è molto interessante, ci sono molti video che girano online, stiamo però parlando di una tecnologia che non sappiamo se vedremo mai sul mercato, prima o poi arriverà qualcosa del genere, sicuramente vedremo fra un bel po' di tempo. Non so se è d'accordo Gianfranco Giardina, che saluto. Bentornato 2024, ciao. Bentornati a tutti gli ascoltatori. Gianfranco Giardina è il direttore del magazine digitale D-Day.it. A proposito di video, voi avete messo tutti in fila i video di HoloLens, quindi uno va su D-Day e si vede i video. Sì, può vedersi tutto lì. Prima o poi arriva qualcosa del genere. Ma però, prima o poi arriva, però poi quando anche arrivassero i device bisogna vedere poi i contenuti, bisogna vedere come sempre un sacco di cose. Bisogna distinguere, ma questo, se parliamo poi ancora del Consumer Electronics Show di Las Vegas, bisogna sempre distinguere tra gli oggetti che fanno più effetto wow, che fanno parlare i giornali e i telegiornali, con le cose e le tecnologie che poi sono usabili sin da subito o in un orizzonte temporale plausibile. Esatto, perché se parliamo di, allora qui nel caso specifico degli HoloLens parliamo di realtà aumentata, ma effettivamente di un mix tra realtà aumentata e realtà virtuale. Se parliamo di realtà virtuale to cure, quindi di occhiali chiusi, che non mi fanno vedere niente all'esterno, mi fanno vedere solo cose inventate, quindi virtuali, c'era una grande attesa già l'anno scorso, passato un anno non è successo niente, oggi ci sono alcuni concorrenti di Oculus, che è stato comprato da Facebook, Samsung ha una sua proposta, però sul mercato c'è niente. No, ancora non c'è niente, perché Samsung adesso ha promesso di dare qualche contenuto, che sarà più un contenuto proprio da far vedere agli amici, per giocare con questa realtà virtuale, ma siamo ancora abbastanza indietro. Bisogna sempre prendere con un po' di cautela queste novità che arrivano. Basti pensare a cosa è successo ai Google Glass, tanto per intenderci. Google Glass è un progetto che ha fatto parlare di sé per 3 anni come se dovesse essere non solo il futuro, ma una novità praticamente già sul mercato, addirittura qualche esemplare è arrivato esposto anche in qualche negozio italiano. Anche se ufficialmente non era in vendita, eppure è un progetto che è stato, diciamo, quantomeno congelato, rimandato a uno sviluppo futuro. Perché? Perché serve che tutti i tempi siano maturi, che ci sia l'hardware, il software, ma anche i contenuti e anche, mi viene da dire, l'abitudine da parte delle persone a utilizzare queste tecnologie. E questo è un tema che forse oggi vedremo anche per altre argomenti. Esatto, il tempo deve essere maturo anche per la predisposizione delle persone ad accettare queste novità. Ad esempio, quest'anno vedremo e capiremo se i consumatori accettano di mettersi un orologio smart al polso, quando, diciamo che una cartina di tornasole sarà l'arrivo dell'Apple Watch, perché Fino adesso gli smartwatch non hanno avuto un successo propriamente virale e potente, però fu così anche per gli smartphone prima dell'iPhone. Sì, capace Apple? Beh, se non è capace Apple, probabilmente i tempi non sono maturi. Qualcuno dice sì, ma se i tempi non fossero maturi, Apple non si spenderebbe su questo fronte. Ma in un passato non recente, anche Apple ha commesso i suoi errori. Quindi vedremo. Di certo l'annuncio che è stato fatto pochi giorni fa, che della durata della batteria dell'Apple Watch sotto le 24 ore, cioè intorno alle 18 ore, sicuramente non aiuta. È un apparecchio che, come era già stato detto, ma questa volta lo sappiamo quindi per certo, va ricaricato tutte le sere. Sì, non è una buona notizia. Dunque, noi questa sera ci siamo incontrati, Gianfranco, per parlare di un argomento che abbiamo rimandato per mesi, anni. Allora, tu sei un grande esperto qua posso citare alcune definizioni storiche. Una volta la chiamavamo domotica. L'importante è non casa domotica, perché è una ripetizione. Allora, domotica, poi home automation, poi gli americani si sono inventati smart home e noi abbiamo tradotto casa intelligente. Certo. Abbiamo sempre rimandato perché effettivamente tu hai seguito progetti in tutta Italia interessantissimi, bellissimi, però ancora progetti per pochi, molto costosi, con soluzioni tecnologicamente avanzate ma molto costose. E abbiamo sempre detto sì, però non è un argomento molto popolare, non sta succedendo molto. Allora, quest'anno al Consumer Electronics Show di Las Vegas abbiamo visto, già lo scorso anno ma molto più quest'anno, una vera esplosione di soluzioni per la smart home. Molte di queste soluzioni sono un po' confuse, alcune soluzioni non parlano con altre soluzioni, alcuni prodotti appunto non riescono a interagire con altri prodotti, quindi tantissime idee, tantissime proposte, dalle più banali che vanno molto di moda negli Stati Uniti, cioè i rilevatori di fumo, visto che hanno molte case di legno, sono appassionati dei rilevatori di fumo, che si evolvono, ma si evolvono, come dire, senza far granché, perché l'evoluzione è non lo attacco alla corrente perché ha la batteria, lo collego al wifi e mi può quindi avvisare, insomma, non è che... Sì, no, non cambiano, molte cose non cambiano radicalmente. Allora, secondo te sta succedendo qualcosa di interessante o c'è ancora molta confusione? Che da un certo punto di vista è positivo, perché in un mondo dove c'è confusione ci sono anche un sacco di opportunità, è un momento in cui capire. Io continuo a dire che questo è un argomento che dovrebbe interessare molto anche gli installatori, che sono una catena importante. Gli installatori, gli architetti, esatto. I costruttori di edifici. Ma allora, innanzitutto volevo non correggere una cosa che hai detto, ma puntualizzarla un po' meglio. Prego. Cioè, gli impianti di smart home, diciamo, tu hai detto, sono molto costosi. È vero, soprattutto se noi vogliamo adattare vecchi stabili a un nuovo impianto. Facciamo l'esempio, se voglio avere la motorizzazione di tutte le tapparelle e le tapparelle non sono motorizzate, non mi arrivano canaline per motorizzarle ed elettrificarle, beh, l'intervento che devo fare è un intervento che va ben oltre la logica di apertura e chiusura delle tapparelle, devo proprio renderle motorizzate. Un appartamento che nasce già con le tapparelle motorizzate, con le canalizzazioni pronte, e viene inserito in un sistema di domotica molto più facilmente e quindi anche con costi nettamente inferiori. Quindi se la si progetta sin dall'inizio, l'impianto domotico non è così costoso e quindi è una cosa comunque accessibile, un pochino più costoso di un impianto tradizionale, ma dà anche grosse possibilità in più. Si apre ovviamente il mondo di sì, ma che standard scelgo, a chi mi appoggio, qual è l'azienda alla quale affidarmi, e qui fino a oggi è stato un mondo di sistemi chiusi o semichiusi o presunti aperti, non completamente aperti, che potrebbero dialogare ma che molte volte non dialogano con le altre apparecchi che ho in casa. La situazione adesso è molto più fluida, è resa fluida dalla diffusione della sensoristica diffusa, di quello di cui magari parleremo dopo, internet delle cose e tutto quello che ne consegue, e questo rende in questo momento, come dicevi tu, la situazione apparentemente più confusionaria. In realtà stiamo andando verso delle soluzioni. Gli americani, che sono un pochino meno sistematici di noi europei, stanno preferendo delle soluzioni puntuali, quindi delle piccole automazioni, quindi sensori, oggetti specifiche per la sicurezza, poi c'è il sistema che controlla il clima, poi c'è il sistema della temperatura, poi ci sono ognuno con la sua app, ognuno con la sua app connessi, ovviamente, app, esatto, devo avere 10 app e riesco a farmi un home automation dove però il centro stella sono io, cioè il proprietario della casa diventa il ricettore di tutte le informazioni e lo smistatore delle informazioni. Per esempio, il qualcosa mi dice che piove, io chiudo le tapparelle. È un esempio, ovviamente questo può essere fatto anche in maniera automatica con un sistema evoluto, ma diciamo la domotica semplice si può anche fare così. È chiaro che ho una notifica e sulla base di quella notifica poi scateno un evento, e questa è una cosa sicuramente molto, molto utile. Ci sono tanti oggetti in questo momento che danno informazioni e tanti oggetti che possono essere telecomandati da internet. Ecco, questo sta un po' scompaginando i giochi. Cito anche per dovere di bandiera l'italiana Isidom, che ha portato una soluzione software che gira su Windows, che permette per esempio di controllare un sistema domotico elettrico, ma anche clima, sicurezza, e collegare potenzialmente un numero molto elevato di altri sistemi, a patto di avere il middleware, quindi quelle librerie che permettono di dialogare con tutti questi sistemi. È tutto lì che si gioca il futuro. Adesso ne parliamo. Apple, Google, e anche altri stanno lavorando per diventare i detentori dell'ecosistema, e quindi fare il sistema operativo, dopo averlo fatto per i telefoni, per i computer, per i tablet, fare anche il sistema operativo per la casa, per questo la casa. È questo lo scopo, e anche per il corpo, però stasera noi parliamo solo della casa, quindi ci limitiamo a quello. Questo è 2024, ci fermiamo, ci risentiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Stiamo parlando della casa intelligente, questo è un tema che potremo poi approfondire anche in altre occasioni. Con noi Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it. Lo trovate su internet www.dday.it. Dunque Gianfranco, abbiamo detto questo, allora, questo middleware lo chiamiamo ecosistema, quindi di fatto un sistema per far dialogare, che ne so, il termostato con un interruttore, con quelli che in termine tecnico, ma si capisce molto bene, vengono chiamati ingressi e uscite. Perfetto. Cioè ingressi sono degli stimoli che arrivano da fuori al sistema, sensori. Può anche essere la pressione di un pulsante, può essere un click sullo smartphone, può essere una temperatura salita o scesa sotto un livello preimpostato. Quindi quello è un ingresso al sistema. Il sistema cosa fa? Secondo delle regole che sono chiaramente precostituite secondo la volontà dell'utente, reagisce con delle uscite e quindi che cosa fa? Attiva una tapparella che si apre e si chiude, inserisce l'antifurto o disinserisce l'antifurto. Per esempio potrebbe essere semplicemente un ingresso, potrebbe essere il mio smartphone che rileva che sono arrivato nei pressi di casa. E quindi che cosa fa? L'uscita disattiva l'antifurto perché sto entrando a casa, quindi non ho più neanche bisogno di inserire o disinserire l'antifurto. Allora, domanda, mi sembra che oggi, questo l'ho visto anche al Consumer Electronics Show, si sia ancora nella fase in cui le entrate e le uscite, se questi sensori e questi attuatori sono tutti dello stesso produttore, sono all'interno della stessa marca, tutto funziona più o meno bene. E questo è il mondo della domotica fino ad oggi. Oggi, esatto. Più o meno è funzionato sempre così. C'è qualche standard tipo Connex che è multimarca, ma si parla comunque sempre di compartimenti abbastanza stagni. Esatto, la domanda che molti si facevano è: ma questa cosa, questo interruttore funziona con quella lampadina di un'altra marca? Questo termostato funziona con quell'altro tipo di attuatore? Le cose si possono mettere insieme? Punto interrogativo. È un lavoro da, come dicevamo, da sistema operativo della casa. Se la casa diventa intelligente, la casa ha bisogno di un sistema operativo, e chi si candida a fare sistemi operativi, chi li fa già occhio e croce sugli smartphone e sui tablet, quindi ovviamente Apple, ovviamente Google per esempio, ma anche Samsung. Al Consumer Electronics Show il keynote del numero uno di Samsung è stato proprio in questa direzione. Ha detto: entro 5 anni tutti gli apparecchi Samsung saranno connessi alla rete, noi proponiamo questa connessione sul nostro ecosistema, ma che dice sarà un ecosistema open, quindi è aperto a chiunque voglia farvi parte, libereremo le librerie, quindi chiunque voglia aderire a questo ecosistema può, ma è come anche l'ecosistema Apple è aperto, nel senso che Apple ha già dato libere le proprie librerie, però il problema è che sono aperti ma sono proprietari, parliamoci chiaro, non sono di tutti, non sono condivisi. Apple nel suo ecosistema farà quello che vuole e potrebbe ad esempio, anzi ci sono già evidentemente delle regole, vincolare il fatto che un apparecchio compatibile con HomeKit, che così si chiama l'ecosistema di Apple, debba avere determinate caratteristiche. Faccio un esempio che già magari tutti conosciamo e molti forse avranno notato, che gli apparecchi, gli speaker, le docking station wireless audio con i quali sentiamo la musica dai telefonini, se sono compatibili con lo standard AirPlay, che è quello di Apple, non sono compatibili col Bluetooth, per esempio con lo streaming Bluetooth, perché questo qui è un vincolo che Apple pone, no? Quindi sono ecosistemi aperti alla collaborazione di terzi, ma governati, da questi colossi. Quindi è chiaro che se io sposassi un ecosistema, per esempio quello di Apple, incominciando a comprare apparecchi compatibili con questo sistema, non necessariamente prodotti da Apple, anzi probabilmente di terze parti, e poi non potrei inserire in questo ecosistema e quindi gestire col medesimo sistema operativo unico degli apparecchi che non sono compatibili, non sono pensati per questo ecosistema. Quindi sì, ci sarà, come c'è già nel mondo dei sistemi operativi per gli smartphone, per esempio, e tutti gli ecosistemi di app, ci sarà una guerra di sistemi operativi per la casa. E questo è abbastanza sì, non delineato. Non si sta, quindi, appunto, se io ho il sistema operativo Pinco Pallino, che però Pinco Pallino sono poche ormai, sono Apple, Google o Samsung o chi altri si proporrà, ma i giochi si stanno facendo insomma in questi anni, poi potrò utilizzare sì prodotti di marche diverse, ma che dovranno essere compatibili con questo sistema. Questa è un po' lì l'idea. Sì, quindi poi c'è un altro capitolo che poi toccheremo in futuro. Tutto ciò parla prevalentemente tramite Wi-Fi, Bluetooth oppure con altre tecnologie, Zigbee, eccetera. Però diciamo che uno degli scenari futuri, anche qui non è che si capisce tutto, cioè c'è ancora molta confusione, ma Bluetooth e Wi-Fi, quindi dovremmo avere la casa ad esempio irrorata da Wi-Fi dappertutto. Ma questo non spaventa più di tanto, perché le potenze legate a Wi-Fi sono molto basse, molto più basse per esempio di quelle dei campi quelli dei gestori cellulari nei quali siamo tutti immersi, sì, quindi sì, questo è il meno. L'unica cosa che invece a me preoccupa molto in prospettiva è unire in maniera così intima due cose che hanno dei cicli di vita molto diversi, quindi la tecnologia digitale, che come abbiamo visto cambia molto veloce, e invece le abitazioni, che hanno dei tassi di rinnovamento molto più lenti. Quindi questo cosa vuol dire? Che una casa con la tapparella manuale, con la cinghia, no? Dura per sempre. Sarà scomoda, ma molto meno obsoleta, cioè ha un rischio di obsolescenza molto più basso. Un sistema molto automatico, molto controllato, ha un rischio di obsolescenza. Va detto, anche se siamo ai microfoni, alla trasmissione di Tecnofan come noi stessi, però va detto che è un rischio di obsolescenza più alta. Mentiremmo se non lo dicessimo. La seconda cosa è un rischio più legato alla sicurezza. È chiaro che il sistema operativo di casa conosce perfettamente tutte le nostre abitudini, sa quando siamo in casa e sa quando non siamo in casa. Se il sistema è molto sicuro, come tutti promettono che sarà, ovviamente problemi non ce ne sono, però potrebbe essere un bellissimo canale di comunicazione per qualche malintenzionato che un secondo dopo che sono uscito di casa forza l'appartamento senza grossi problemi. Tutto quello di cui stiamo parlando si inserisce nel più vasto capitolo della Internet of Things, o della Internet of Everything, come dice Cisco, che tra l'altro ricordo la prossima settimana terrà il suo evento internazionale a Milano e il suo evento nazionale all'interno del Cisco Live, che è internazionale, ci sarò anche io, quindi sarà una occasione per parlare di Internet of Things, cioè la internet che comincia già da un po' di tempo, ha cominciato a connettere le cose. Queste cose sono sensori e attuatori. Sì, che è una cosa molto interessante. È stato uno dei temi, devo dire, anche fin troppo enfatizzato dell'ultimo Consumer Electronics Show. Ho visto alcuni titoli di mezzi di stampa generalisti che vanno a tutti, anche persone che non sono così magari direttamente interessate alla tecnologia, che suonavano tipo CES 2015, l'internet delle cose diventa realtà, oppure smartwatch, internet delle cose, le superstar del CES di Las Vegas, cioè forse un po' troppo esagerate. Qui c'è un rischio importante, perché internet delle cose, e quindi tutti questi oggetti connessi e più o meno intelligenti, al di là del fatto che abbiamo capito che ancora poi dobbiamo connetterli tra di loro, questo sarà un problema che verrà, ma anche adesso che sono almeno connessi con noi e ci danno informazioni tramite normalmente lo smartphone o il tablet, innanzitutto bisogna capire se sono utili, perché quando si disegna su una tavolozza bianca come queste nuove possibilità date da questi microsensori, i processori a basso consumo, protocolli di comunicazione a basso consumo, ecco, quindi hanno dato nuove possibilità, ma quando si disegna su una tavolozza bianca, a volte, se si è Picasso, vengono fuori dei quadri meravigliosi, a volte vengono fuori delle croste orrende. Quindi, per esempio, mi chiedo e vi chiedo e ti chiedo, il biberon connesso che calcola quanto ha bevuto il bambino così non dobbiamo tenerne traccia, piuttosto che il letto connesso smesso, che mi comunica quante ore ho dormito e se mi sono agitato o se mio figlio si è alzato dal letto oppure no, ci sarebbe da chiedere se sono buoni esempi di Internet delle cose, perché poi c'è il rischio che magari facendo vedere qualche diavoleria di troppo, che poi sono quelle che guarda caso si beccano il servizio al telegiornale, non so perché, ma sì, perché sembra c'è che un po' di ignoranza diffusa tra i nostri colleghi, quindi vanno. No, abbiano proprio il gusto di proporre la tecnologia come la diavoleria strana e non come la cosa utile e intelligente. Odio questo atteggiamento, questo purtroppo è così. C'è il rischio che si trasformi in Internet delle cose come le diavolerie, le stupidaggini connesse, questo è un rischio effettivo. Sono d'accordo, ci fermiamo per un minuto. 2024. L'ultima parte di 2024, stiamo parlando di casa intelligente, di home automation, di smart home e, come dicevo poco fa, quella che una volta si chiamava domotica, ma giustamente la chiamiamo ancora domotica. Dicevo prima, Gianfranco, che tutto questo tema, questa sera abbiamo fatto una sorta di introduzione al tema, sottolineando alcuni rischi che ci possono essere, dovrebbe interessare molto gli installatori, gli architetti e anche i negozi che vendono queste tecnologie, e qua si apre un altro capitolo, un altro problema. Sì, si apre un altro capitolo, perché c'è chi dice, io sono anche abbastanza d'accordo, che il mondo di Internet delle cose sia in questo momento proprio più che altro uno showroom con prodotti da mostrare per far capire più o meno dove potremmo andare, ma sono prodotti assolutamente non maturi. Questo perché ancora, come dicevamo, non si è capito quali sono i paradigmi di successo, e poi perché le tecnologie potrebbero essere non completamente pronte. Per esempio, i consumi di questi oggetti, spesso parlavamo degli smartwatch prima, no, sono ancora molto alti, oppure la potenza delle batterie non è ancora sufficiente, e quindi avere una casa disseminata di cose che vanno ricaricate o a cui bisogna cambiare le pile poi diventa una schiavitù forse peggiore, e quindi anche questo è un tema. Bisogna aspettare magari di capire quali sono gli standard che si affermano, quali sono i paradigmi di successo, quali si capirà che invece non avranno senso. Quindi siamo di fronte, c'è chi dice 3, c'è chi dice 4, chi dice addirittura 5, come Samsung dice che fra 5 anni sarà completa questa visione. Siamo di fronte a 5 anni di grigio, di non chiarezza, cioè, da questo punto di vista. Però io dico è una buona opportunità, perché bisogna approfittare di quello che succede. È una buona opportunità, ma non bisogna essere confusa questo nuovo che arriva con un nuovo che sostituisce tutte le novità che c'erano prima. Sì. Mi spiego, il negozio, tanto mi citate i negozi italiani si stanno svuotando alcune categorie di prodotti che sono diventate obsolete. Le videocamere, le fotocamere compatte, i navigatori GPS, i personal audio player, tutti apparecchi che gli smartphone e tablet, occhio e croce, hanno reso obsoleti. Quindi si svuotano di questi prodotti, e che cosa arriva in cambio? Arrivano dei prodotti che non necessariamente sono così acquistabili subito, faranno anche wow factor, qualcuno andrà anche a vederli in negozio, ma poi se dovessimo chiedere, ma tu comperesti il pedale connesso della bicicletta che ti localizza la bicicletta e ti dice dov'è? Ma forse no. Allora, questa non è una bruttissima idea, però se incominciasse a costare anche 200 euro, probabilmente non lo comprerei, perché costerebbe come la bicicletta. Quindi c'è anche un tema di prezzi. I prezzi sono comunque alti, perché siamo prodotti che sono al lancio. Se tutto il focus delle novità, se noi da tutte le puntate 2024 parlassimo soltanto di questi oggetti, che però sono oggetti che non hanno un mercato reale ancora, probabilmente non renderemmo un buon servizio né ai consumatori, che pensano che non esista nient'altro, e neanche al mercato stesso. Allora, Gianfranco, continuiamo su questo tema, rimani con noi e ascoltiamo insieme un'intervista che ho realizzato con Alberto Fioravanti, l'amministratore delegato di Premium Store, che ha realizzato Edicola Italiana. Allora, saluto Fioravanti, benvenuto 2024. Grazie. Che cos'è Edicola Italiana? Domanda semplicissima, è un'edicola digitale. Che cosa vendete in questa edicola? Quotidiani e periodici, settimanali, mensili, e per la prima volta siamo riusciti a unire le forze dei principali editori italiani e far sì che ci fosse per i clienti l'opportunità di avere un unico accesso, quindi un'unica registrazione per comprare tutte le testate e fruirne poi su web, su iPad, sia in modalità www.edicoleitaliana.it, quindi web dal browser, che scaricando le app dagli app store, quindi scaricando l'app del Sole 24 Ore, di Panorama e degli altri testate. Non c'era una cosa del genere prima di Edicola Italiana? C'erano. Ricordiamo, è da mesi che... Sì. Allora, come sempre bisogna mettere d'accordo più voci, più teste, e quindi è un progetto. Ci sono gli editori, sei editori nazionali, ma il progetto è aperto, aperto per avere dentro anche gli internazionali e anche i piccoli editori. Non c'era una cosa del genere? No, non c'era. Era... Cioè, ci sono delle altre offerte per leggere in modo sono digitale? Sono tutte verticali. Se un visitatore, un cliente voleva leggere il Sole 24 Ore, doveva andare sul sito del Sole 24 Ore oppure sull'App Store di Apple. Cosa che si può fare ancora oggi. Assolutamente sì, quindi questo è un nuovo canale di distribuzione. Quindi... Infatti una persona mi chiedeva, ma... Per quale motivo, se io mi devo abbonare al Sole 24 Ore, perché andare su Edicola Italiana e non sul sito del Sole 24 Ore? Usiamo questo come esempio. Diciamo, per una facilità d'utilizzo, se io sono leggo diverse testate e entro in Edicola Italiana e con una sola password io posso sfogliare e passare tra tutti gli editori e tutte le testate. Secondo, in Edicola Italiana ci sono delle offerte innovative. Per la prima volta al lancio abbiamo provato a fare una proposta di All You Can Read, quindi tutte le testate dei nostri consorziati mensili a 9,99 e mensili più settimanali a 14,99, quindi è una diciamo lo Spotify delle notizie. Sì, ricordiamo che All You Can Eat vuol dire tutto quello che puoi mangiare ad un costo fisso. Questo è stato lanciato dai ristoranti americani qualche anno fa, poi oggi si trova anche in Italia. Pago 15-20 euro e mangio tutto quello che voglio. Poi questa cosa si è diffusa anche in altri settori, quindi in questo caso All You Can Read, cioè per un abbonamento mensile o settimanale unico leggi tu. Vale anche per i quotidiani? No, per i quotidiani invece abbiamo un'offerta che consente di provare tutti i quotidiani dei nostri editori per 7 giorni gratis poi decidere se andare a continuare perché il prodotto è buono o provare un'altra testata. Ce ne sono una trentina di giornali. Quindi diciamo che se io sono un lettore del Sole 24 Ore e voglio solo il Sole 24 Ore, probabilmente vado sul sito del Sole 24 Ore, mi abbono alle app del Sole 24 Ore, punto. Se invece sono interessato o sono curioso, o voglio leggere più quotidiani, così come vado nell'edicola fisica, vado nell'edicola digitale. Sì. L'altra cosa che abbiamo fatto proprio per far emergere i contenuti diversi degli editori è creare un sistema di ricerca, quindi l'utente può cercare per parole chiave i contenuti della carta stampata. Questa è la prima volta che è possibile farlo in Italia. Questi contenuti non sono presenti su Google, non si possono accedere prima di noi sul web, e consente di non tanto andare negli archivi storici, ma velocemente, se uno gli interessa un argomento, vedere quali sono i titoli e quali sono le prime parti dell'articolo, l'incipit dell'articolo su questi temi. Si possono comprare, così come nell'edicola fisica, i singoli numeri dei quotidiani? Alcuni o il singolo settimanale? Allora sì, diciamo che diversi editori ci hanno dato la possibilità di vendere il singolo numero. La formula è sicuramente più diffusa attualmente per i periodici, ma anche sui quotidiani, sulla ricerca ci sarà. Voi avete un obiettivo, tanti obiettivi, però una cosa che mi sembra interessante, vendere, e sicuramente anche originale, mai vista, o meglio, non in Italia, vendere il singolo articolo, cioè? Diciamo che a me piacerebbe tanto che prossimamente sia possibile sperimentare su questa piattaforma, dopo aver fatto la ricerca, l'acquisto del singolo pezzo. È un'esperienza che è già attiva in altri paesi europei, in Olanda, e potrebbe portare a un nuovo pubblico, a un estendere, a probabilmente i giovani che non sono abituati a leggere la carta. Facciamo un stampata. Esempio di come potrebbe funzionare o di come funziona in Olanda. Ma in Olanda è semplice, cioè, si va su un sito che si chiama Blendel, si può vedere l'articolo addirittura e si paga dai 20 ai 40 centesimi con una precarica, si mette, si compra 5 euro e poi man mano basta il click per poter sfogliare l'articolo, che ha una presentazione coerente con l'immagine dell'editore, quindi mi ritroverei con i colori del Sole 24 Ore, con il font del Sole, con le immagini del Sole 24 Ore, ma la barriera d'ingresso per un lettore è zero, perché è 20 centesimi. Sì, sì, no, non zero, ma diciamo vicina si è abbassata zero. Rispetto sì. A un abbonamento mensile, però questo speriamo di fare qualche sperimentazione, per adesso è sì. Un obiettivo. Siamo ancora al PDF della versione cartacea dei quotidiani o dei settimanali o dei mensili, o si è fatto qualche passo no, in avanti? Ci sono passi avanti. Gli editori hanno realizzato delle app per i tablet che consentono di avere un'esperienza nuova, diversa. Si parte da una rappresentazione che è la pagina del giornale, la copia stampata, ma si possono leggere i testi, si possono vedere immagini, si possono vedere dei video. Sì. La stessa organizzazione dell'esperienza di navigazione è diventata più ipertestuale. Non tutti, però, ahimè, hanno i mezzi e sono già pronti per questo. Mi auguro che anche col nostro piccolo contributo l'editoria possa raggiungere presto l'obiettivo di fare sì che sul digitale ci sia probabilmente l'esperienza migliore che si può dare del proprio prodotto, e questo avverrà e sta avvenendo. Dobbiamo solo, però, diciamolo, il passaggio decisivo, questo vale in generale per il mercato, è uscire dalla logica della riproduzione di quello che c'è sulla carta e pensare a prodotti diversi, sì, più simili ai siti internet ma più ricchi, perché se uno paga ha diritto ad avere più contenuti. Sì, anche la metafora è assolutamente corretta. Diciamo che per convincere il nuovo lettorato giovane bisogna avere un approccio nuovo. Sono sì. D'accordo con te. Voi guadagnate come l'edicolante, cioè prendete come una percentuale? Abbiamo una piccola percentuale. E quali potrebbero essere i business futuri oltre a questo? Ma abbiamo... Che uno potrebbe pensare, ma potreste anche voi fare pubblicità. No. Però no, qua no. Vanno contro gli interessi naturalmente degli editori, no, giustamente. No. Allora, ci sono delle estensioni naturali che vengono, per esempio gli ebook, i libri, l'instant book. Sì. Il mercato degli ebook non è esploso ancora in Italia, ma è già abbastanza maturo. Ecco, secondo me nel contesto in cui sto leggendo un articolo di un libro, di un ebook, o mi interessa un approfondimento e posso in quello stesso, mi piacerebbe in futuro prossimamente mettere in edicola italiana anche la possibilità di acquistare l'ebook, il libro. E poi vedremo, ci saranno tutte, arricchire l'edicola italiana di altri servizi e contenuti coerenti con quello che sta facendo. Ti faccio un'ultima domanda per capire nel mondo cosa sta succedendo. Quali sono gli altri paesi dove ci sono delle edicole digitali molto evolute, molto belle, con delle esperienze per l'utente molto gratificanti? Beh, diciamo paesi anglosassoni, l'America ovviamente. C'è un'esperienza per i periodici Next Issue molto interessante. In Europa Next Issue. Okay. Purtroppo si può accedere solo se si è americani per questioni di diritti. Sì. Molto interessante Blendel, che abbiamo citato prima, la vendita del singolo articolo in Olanda. Poi, in Francia, ad esempio, abbiamo esperienze di specializzate per i periodici, quindi su app che consentono di sfogliare i periodici, ma non i quotidiani, ad esempio. Quindi ci sono Zinio, ad esempio, è una delle app storiche voluta Zinio che consente di poter avere accesso a un'edicola mondiale addirittura, perché ci sono le principali testate di tutto il mondo. Le Kiosk francese è un esempio, anche loro solo periodici, molto bravi. Poi ci sono altri servizi sempre in Francia, in Germania, però diciamo siamo il primo caso, di secondo me, in Europa, di un sistema che vuole mettere insieme il mondo dei periodici, dei quotidiani, fatto da un consorzio di editori. Bene, io ringrazio Alberto Fioravanti per essere stato con noi, in bocca al lupo. Grazie mille, grazie a voi. E così concludiamo questa puntata di 2024. Volevo fare alcune considerazioni sulle ultime parole che abbiamo detto con Fioravanti. Allora, prima di tutto dico e aggiungo che, ad esempio, sul sito internet del Sole 24 Ore c'è già la possibilità di comprare singolarmente gli articoli, però avete capito, gli editori continuano a proporre la propria offerta digitale online con le proprie app, e questa edicola è un soggetto terzo ai quali che ha accordi con questi sei grandi editori, tra cui il Sole 24 Ore, ed è un'offerta diversa. Quindi la sperimentazione a cui faceva riferimento Fioravanti si riferisce proprio al fatto che è un terzo soggetto. E poi naturalmente potremmo parlare molto e fare molte trasmissioni su quello che sta succedendo all'editoria. Questo è un servizio, quello di cui abbiamo parlato, è un servizio che si inserisce nel percorso di cambiamento, rinnovamento, distruzione e rinascita del mondo dell'editoria, perché devo dire che negli ultimi anni di macerie ne abbiamo viste molte. È stato un crollo incredibile del mercato pubblicitario, soprattutto nell'editoria tradizionale della carta, che per il momento non viene ripagato dal mondo della pubblicità online. Quindi se da un lato si è perso 100, dall'altro si è guadagnato 10 o 20. Adesso vado un po' a spanne, però sicuramente il crollo della pubblicità è stato un crollo importante. Poi c'è stato un crollo delle vendite, quindi l'editoria sta passando anni molto difficili. Però sicuramente si dovrà ripensare un percorso molto complesso. Riguarda anche il mondo dei giornalisti, che sicuramente devono ripensare alla propria professione. Riguarda il mondo dell'editore, inteso non solo in modo industriale ma proprio come vocazione informativa. E sicuramente uno dei motivi di crisi è che alcuni editori hanno anche perso, se mai ce l'hanno avuta, la propria vocazione di informazione. Sicuramente questo è un modo per riguadagnare quote di mercato, fare informazione di qualità, e sicuramente direi che all'interno del Sole 24 Ore da questo punto di vista siamo ben posizionati. Dicevo, però, il percorso è molto complesso. Nessun editore al mondo ha trovato la soluzione ai problemi dell'editoria, non l'hanno trovato. Forse ci sono pochissimi come il Financial Times, il Wall Street Journal, ma li contiamo sulle dita di una mano, senza utilizzarle nemmeno tutte. Di sicuro, una cosa che mi sento di dire, non si può pensare che la digitalizzazione possa essere una semplice trasformazione digitale di una pagina di carta, facendola diventare un PDF. E molte cose quindi andranno ripensate profondamente da questo punto di vista. Siamo in attesa di nuove idee, ma dicevo, le nuove idee le attendiamo un po' da tutto il mondo, perché questo è un percorso che deve ancora, è al di là dall'essere completato. Ma sta succedendo la stessa cosa in molti altri settori, e se pensate al mondo del turismo, ad esempio, ne abbiamo parlato in altre occasioni. Bene, tutto per 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione. Anche in questa puntata avete ascoltato contenuti esclusivi per la versione podcast, quindi le nostre interviste in versione integrale. Ringrazio Gianfranco Giardina che è venuto a trovarci nei nostri studi. Continueremo sugli argomenti di cui ci siamo occupati questa sera anche in altre puntate di 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio, vi do appuntamento sia alle altre versioni podcast oppure in onda su Radio 24 il venerdì tra le 22 e le 23, la domenica tra le 13:05 dopo le notizie di GR24 e le 13:30. L'augurio di un buon ascolto con i nostri programmi. 2024.